ci dica che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera radioascoltatori di Radio Alma, oggi il 1 luglio 2013 e siamo in diretti dal Centre de Culture de Saint-Gilles con voi per intrattenervi questo lunedì. Eccoci qui, dunque ragazzi, abbiamo la nuova squadra a Radio Alma, ci ripresentiamo. Nuova, insomma, non è proprio nuova. Abbiamo già fatto una puntata, però, per chi non ci conoscesse, ripresentiamoci velocemente. Io sono Rossella. Io sono Tiziana. E in regia Leandro. Ciao olè, ragazzi. Olè, abbiamo pure il maschietto. Bene. Allora. Allora, miei cari amici. Rossella. Tiziana. Di che si parla oggi? Ma guarda, io non so, io pensavo oggi il primo luglio, no? Primo oggi luglio. C'è un sole meraviglioso a Bruxelles. Anche a Bruxelles, siamo fortunati. Ebbene sì, ragazzi, inizia l'estate, quindi pensavo chissà quanta gente sta per il momento pensando cosa metterò nella valigia tra un giorno, tra due giorni, tra una settimana. Magari anche ora, mentre ci state ascoltando, state già facendo le valigie, già pronti a partire. Mi raccomando, un paio di mutande in più sempre. Grande, lo so. Quella sempre, possibilmente sempre. Pulite. Ecco. E quindi sì, abbiamo pensato, perché non parliamo un po' di viaggi? Viaggi. Sì. Viaggi, vacanze. Partire, esplorare. Dai, che noi siamo un po' tutti maestri, no? Nel un po' appassionati del viaggiare, no? Ma sì, ma anche viaggiare è un'arte alla fine. Ci vuole un certo che cosa succede? No problem. Ballate. Ragazzi, siamo un po' terrorizzati, cari amici radioascoltatori, perché ecco, l'altra volta ci sono stati un po' di imprevisti, ma no. Ma insomma, gli imprevisti sono il sale della vita, quindi sì, noi siamo qui pronti ad affrontare tutto. E anche tutti. Nel viaggiare, se non ci fossero gli imprevisti quando viaggi, ma che viaggio sarebbe? Sarebbe veramente noioso. Quanto è bello perdersi, sbagliare il treno, sbagliare la coincidenza, perdere un aereo. Oh guarda, non me lo dire, che tutti quanti penso abbiamo fatto un'esperienza del genere e non ce la scorderemo più di per tutta la no. vita. Bene, allora Tiziana, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori, i numeri e i contatti. Certo. Allora, potete telefonarci, intervenire e dirci la vostra sui viaggi, cosa farete, dove andrete, cosa vorreste fare ma non potete fare, telefonando allo 02 345 2656, oppure potete mandarci dei messaggi al numero 0486 941129, o ancora potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro On Air. Mi raccomando, fatevi sentire ragazzi. Perfetto ragazzi, perfetto. Yay. Ora, chi di voi quando era al liceo, quando era più piccolo, non ha pensato di prendere, andare a fare viaggi, a conoscere ragazze, a conoscere ragazzi, a prendere le valigie, a partire, a lasciarsi tutto dietro? E con quale canzone questo facevamo così noi giovani ragazzi italiani? Ma con Nord, Sud, Ovest, Est degli 883. Allora, mandiamola! Grande! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Bentornati a tutti sui colori dell'anima, ragazzi. Qui con questa canzone ci sono stati balletti, capriole, chi ballava a destra, chi a sinistra. Che ci piace tanto questa canzone a noi, eh? Quanti ricordi, l'adolescenza. Allora, correva l'anno 1993 e gli 883 presentavano questa canzone al Festival Bar, spopolando in tutte le classifiche per non so quanti mesi e settimane di seguito. Quindi dai, North, dove stai? Ci piace proprio. È no? legata a bellissimi ricordi, penso, per tutta la nostra generazione. Tutti i ragazzi più o meno della nostra età avranno sognato e saranno tornati indietro nel tempo. Addirittura mi ricordo che c'avevo l'audiocassetta. Sì, e ne ero felice, la prima che comprai in assoluto, avevo 11 anni, un'emozione. Sì, ah, sì, tanto. Bellissimo. Ma Rossella, ricordiamo un attimo i nostri numeri, perché noi vogliamo interagire con i nostri radioascoltatori. Esatto, ragazzi, telefonateci allo 02-345-2656 oppure mandateci un sms allo 048-69-41-129 o ovviamente seguiteci su Facebook sulla pagina Rossella, Tiziana e Leandro Onel. Bene, allora dai Tiziana, che cosa parliamo allora, adesso? Si parla di viaggi, abbiamo detto che siamo in estate, tutti sono pronti a partire, sognano le vacanze, ancora sono lontane ma già iniziano a pensarci, iniziano a guardare sui siti per i voli last minute, e quindi non c'è miglior argomento di questo per oggi. Comporto. Primo luglio, sì. Però vogliamo prenderlo da un punto di vista un po' particolare, questo argomento. Mm-hmm. Perché noi siamo a Bruxelles, viviamo a Bruxelles, ma non siamo di Bruxelles. Esattamente. Ci sono tantissime persone qui che hanno viaggiato tanto ancor prima di arrivare a Bruxelles, che viaggiano per lavoro, viaggiano perché hanno la famiglia lontano, perché hanno il fidanzato lontano. Quindi il viaggio per alcune persone è un qualcosa che viene fatto nella vita normalmente. Sì. E allora per queste persone cosa vuol dire viaggiare? Per andare in vacanza assume tutta un'altra dimensione, tutto viene contestualizzato in modo diverso. Concordo Tiziana, hai perfettamente ragione, ed ecco perché abbiamo con noi qui in studio una persona che è, diciamo, di cui è proprio in questa situazione, un po' come tutti noi in fondo, no? Ha una famiglia fuori, abita all'estero, viaggia per il lavoro, però è una persona ancora più particolare, dai, fammelo dire. È con noi in studio Anne Ireland. Buonasera, Anne. Buonasera, Rossella. Allora, già questo nome è un programma, Anne Ireland. Dici di dove sei? Sei mica irlandese? No, non sono irlandese, il mio nome è Ireland, ma mia mamma è francese, mio padre è inglese, sono nata e cresciuta in Spagna e ho vissuto tre anni qua a Bruxelles. Io già mi confondevo, traduco, mi sono già confusa. Mamma mia, Anne, che background che hai. E dici un po', di dove sono esattamente i tuoi genitori? Quindi hai detto papà inglese, mamma francese, sì. Perché mi sono persa, come avrei capito. Cresciuta in Spagna, parli un italiano perfetto. Sei per il momento a Bruxelles, sì. Ma in realtà dove vivi, dove lavori? Boh, dopo tutto questo è un po' più complicato. Allora, raccontaci, dai. Adesso abito a Burundi, non so se la gente sa dov'è. Ma ricordiamoglielo un po', perché il Burundi è un piccolo paese, no? Sì, un piccolo paese del centro dell'Africa, vicino a Ruanda, Tanzania, Uganda, eccetera. Uh-huh. E sono là per lavoro, sono stata là un anno e lavoro per la cooperazione belga. Ah, benissimo. Sì. Questo è un progetto di cooperazione, mi dicevi, un progetto di cooperazione internazionale gestito dal governo, del Ministero degli Esteri belga. Uh-huh. Wow, che bella esperienza. E dici un po', Anne, tu sei arrivata in Burundi attraverso Bruxelles e sei arrivata a Bruxelles attraverso cosa? Raccontaci un po' il tuo percorso, ecco, ad esempio, innanzitutto dove sei nata? Perché insomma, un po' di confusione, no? Dove festeggiavi i compleanni? Che lingua parlavi? Parlavi in francese, in inglese, a casa? Sì, vediamo. Da dove cominciamo? Prima i miei genitori si sono incontrati a Marocco. Ah, beh, certo, ci voleva un altro paese. Sì, certo, dopo hanno abitato in Inghilterra e dopo mia madre ha avuto un lavoro in Spagna, sono andata in Spagna. E all'inizio per... E la Spagna che c'entra, scusa, tua madre è francese, hai detto? Sì, sì. Quindi, però ha... altre sì, ha origine spagnola, ah, anche sì. Ok, bene, scusami, sì. Okay, bene. Ma è arrivata in Spagna alla fine perché ha chiesto un posto per cambiare di posto, perché era in Inghilterra e ha avuto questo lavoro in Spagna. Uh-huh. E all'inizio sono rimasti 6 anni e alla fine gli hanno piaciuto tanto la Spagna che sono rimasti là. E io sono certo. Nata e Olè. Sono ancora là dopo 30 anni. No, che bello, benissimo. E insomma, hai avuto quindi la possibilità di vivere in Spagna fino a che età? Fino a che età come sei stato 20 in Spagna? Anni, sì. Fino a 20 anni. E poi ti sei spostata per motivi di studio, mi dicevi. Sì, sì, sì. Ho studiato in Francia per 3 anni e dopo in Inghilterra per 1 anno. Wow. E sono tornata un po' in Spagna dopo, ho fatto uno stage a New York per 3 mesi. E basta, e dopo, basta. Allora, ho lavorato a Bruxelles. Oh, mamma mia. Ragazzi, mamma veramente... Mia. Una... Zan, ma dove sei stata? Pure in Burundi? Adesso sono... Andata dappertutto questa. Super intensa. Mamma mia. Ma che invidia. Devo tornare ancora a Burundi in 3 settimane. Quindi sei qui di passaggio. Sei qui in vacanza, diciamo. Ragazzi, stiamo dicendo che è andata veramente pure in Burundi. Sì, sì, veramente ci è andata a Burundi. Amo capito. Lei è allora, una ragazza, scusa, ma una ragazza così, che ha viaggiato già tanto nella vita, nel momento in cui le viene voglia di farsi una vacanza, che cosa fa? Ha già quasi toccato tutte le parti del mondo. Viene a Bruxelles. Anna, come vai in vacanza? Sì. Sì, sei venuta a Bruxelles in realtà per le tue vacanze. Sì, vero. Tutte le altre persone vanno in spiaggia, vanno a posti dove fa caldo, ma io lavoro in un posto dove fa come 30 gradi tutto l'anno e vengo qua a Bruxelles che fanno 11 gradi e sta piovendo. Oh, infatti noi siamo contenti di queste cose, veramente, guarda. Brava. Come si dice in Sicilia. Sì. Ma ricreare. Bella, coraggiosa. Senti, ma parlaci invece un po' del Burundi, cioè come si vive in Burundi? È un altro mondo, perché beh, noi siamo abbastanza abituati a paesi nuovi europei, alla cultura europea, sì, ovviamente ogni paese ha le sue particolarità, ha la sua lingua, ha i suoi modi di fare, però il Burundi è un altro continente, è l'Africa, come si sta? Raccontaci un po', quali sono... Sì, ecco, se dovessi raccontarci in poche parole, cos'è il Burundi? Le differenze principali, cosa hai notato come prima cosa quando sei arrivata lì? Cosa a ti ha colpito? Parte che erano tutte nere. Molto neri. Che, Anna, scusatemi, ma ho fatto questo commento perché Anna è bianca come una mozzarella di bufala. sì, voi non la vedete, ma penso che può fare la pubblicità dei Ringo Boys. Se guarda lei, è colpa latte. Del mio padre, inglese. Il tuo sangue inglese. Sì, no, la particolarità de Burundi è che è in centro dell'Africa e... È vicino a tanti altri paesi che sono conosciuti per il viaggio, come Kenya, Tanzania, per i parchi con animali, eccetera. Ma Burundi non lo conosce quasi nessuno, mm-hmm. perché è molto piccolo. La gente conosce Ruanda di più per tutta la storia. E quando io dico sono a Burundi, certo. Tante persone chiedono cosa fai là, cos'è questo paese, cosa c'è. È mm-hmm. anche un paese che ha poco turismo perché non ha sviluppato niente ancora. Quindi è molto, come si dice? Indietro. No, come vergine qualcosa, non so se si... Sì, una terra, sì, vabbè, insomma, no, sì, no. Un po' arretrato, mettiamola così. Sì, esatto, no, capisco. Sì. Ma... Come fai ad arrivare in Burundi? Ci sono dei voli diretti col Bruxelles? Burundi sì, perché sì. aveva delle relazioni coloniali col Burundi sì, e Bruxelles, immagino. Sì, Burundi come il Congo, ad esempio. Quindi c'è un volo 2 volte alla settimana mm-hmm. direttamente da Bruxelles a Bujumbura, che è la capitale. Bujumbura, sì. Il nuovo scioglilingua della serata. Benissimo. Bene, Ann. Ma Rossella, è un po' che si parla. Parliamo, ma noi vorremmo anche sentire un po' di musica. Ma sì, Leandro, facci sentire Leandro, qualche cosa. Dai, facci sognare, facci sentire qualcosa. Allora, ve la lancio io, ragazzi. Vi faccio sentire i Clash con Should I Stay or Should I Go? Aspetta, poi la lanciamo dopo, intanto andiamo avanti. Ma ecco, quindi il lancio del giavellotto non funziona. Ritenta, sarai più fortunato. Vabbè, sì, insomma, continuiamo allora. Dici un po', Tiziana, tu che dici, ma tu, se te dicono domani parti e te ne vai in Burundi, a Bujumbura, tu che dici? Fatti la valigia, si va a Bujumbura. Oddio, mamma mia, ecco. Mi chiederei come prima cosa che mi porto. Cosa metti in valigia? Ah, non lo so, cioè, possiamo chiederlo ad Anna. Vestiti, penso che... infatti, cosa metti, Anna? Perché poi è un clima molto diverso. Sì, si fa caldo tutto l'anno. Che ci piace questa cosa, però è un caldo umido, no? È un caldo... Sì, dipende, perché sono quattro stagioni, una secca, una molto secca, una più... come si dice? Piovosa, sì. Piovosa e una molto piovosa. Uh-huh. Quindi dipende, la... dipende non dalla è sempre umido, ma sempre fa... tanto caldo, sì. Mm-hmm, ok, quindi vabbè, allora ci portiamo un po' di vestiti estivi, sì. Poi un buon repellente contro le zanzare. Sì, questo è importante perché è vicino al lago, a un lago grande. C'è un grande lago, sì. In Burundi? Che sì. Lago è? Si chiama Lago Tanganyika, che è il secondo lago più grande della regione delle Grandi Laghi in sì, Africa. Sì, sì. Mm. Ok, sì. Ed è un lago che confina anche con la Tanzania, esatto. Come dicevi, sì. Che mm-hmm. sembra quasi il mare, mi hai detto prima, sì, e sì, mi sì. ha fatto un po' pensare questa cosa. Ma proprio lo hanno stesso... spiagge anche. Hanno le spiagge? Le spiagge del, ma sì, del si lago. Tuffano proprio, vanno al mare, scusate, vanno al lago. A... sì, sì, la gente va al lago, a nottare. Il weekend, sì, sì. Dai, va bene, allora io ragazzi vi direi, ma che dobbiamo fare? Ci dobbiamo andare sul lago Tanganyika o no? Io direi di sì, che facciamo? Allora, ci andiamo o non ci andiamo? Io direi andiamo tutti sul lago Tanganyika. E vai. E andiamo, let's go. Ed eccoci tornati in studio. Buonasera ancora una Buonasera. Volta, radioascoltatori. Ricordiamo i nostri numeri di telefono. Allora, telefonate allo 02 345 2656 oppure mandate un SMS allo 048 69 41 129. O ancora ci abbiamo una nostra pagina Facebook, ragazzi, visitatela. Rossella, Tiziana e Leandro On Air. Scriveteci. Fatevi sentire, ragazzi. Tiziana, dimmi un po' che cosa c'è su Facebook. Tu che sei la tecnica della nostra squadra qui. Mi prendi un po' impreparata. Allora, tra due minuti ve lo abbiamo dico. Tanto il radioascoltatori. Tra due minuti ve lo dico. Bene, senti, io farei qualche domanda ancora ad Anna, che dici? Parliamo un altro po' del Burundi, perché chi è che ci viene a parlare del Burundi, eh? Solo Anne Ireland. Rintroduciamola. Anne è una cittadina europea. Facciamo prima. Si può dire forte. Perché se no ci perdiamo. E che per il momento è a Bruxelles, ma lavora in Burundi e a Bujumbura. E quindi Anna, io ad esempio stavo pensando, tu che fai la giornata? Ti svegli con la sveglia, vai al lavoro? Come sono le giornate? Quali sono le differenze, ad esempio? Prima abitavi a Bruxelles, quindi penso che le tue abitudini sono un po' cambiate. Sì, oh. Sì, sì. Certo, perché là a Burundi si alza il sole molto presto, quindi come alle 5, qualcosa del genere. Io mi alzo come alle 6 del mattino ogni giorno, vado al lavoro come alle 7:30 fino alle 5:30, perché dopo fa di notte come alle 6 e questo così tutto l'anno. Wow, quindi dalle 6 alle 6 è la tua giornata. Sì, e anche hanno 2 ore di pausa per il pranzo a Burundi, questo è molto particolare. È un po' come la siesta spagnola, quindi ti senti un po' a casa per questo punto di vista. Non l'ho fatto mai in Spagna, solo nell'estate perché fa caldo, ma certo. A Burundi la gente mangia, dorme un po' e torna al lavoro dopo 2 ore. Ah, tranquilli, bene, mi piacciono allora i burundesi. Senti, invece la capitale, Bujumbura, dove abiti tu, è una città... piena di, non lo so, ad esempio il centro, ci sono dei monumenti, ci sono dei negozi, mi immagino di no, me la immagino un po' diversa una capitale africana, però dici un po' tu, descriverci un po', che cosa c'è a Bujumbura? A Bujumbura c'è molta gente che cammina, molto traffico, molta gente, molto caos, sì, molto dicevi, caos, sì. La gente... e guida malissimo. vabbè, insomma, come a Palermo, non come Catania, no? Anna, te l'assicuriamo noi, non come Catania. Ci sono tanti negozi, ma sempre molto piccoli, non sono centri commerciali, perché non esistono. Così, ma certo, non esistono i centri commerciali. No, vabbè, no, no, vedrai. Tante ristoranti, piccole, bar, questo c'è. Ci piace, la parola ristorante mi fa pensare. Sì. E la gente esce un po' di notte. Sì, esce la sera. Sì. E dici, quando vai al ristorante, che si mangia in Burundi? Qual è il piatto tradizionale? Si va a parecchio ristorante? Vabbè, ovviamente immagino che la tua vita è una vita da expat anche in Burundi, sì. Quindi ecco, come che mangia un expat in Burundi, Anne? Boh, a Burundi e a Bujumbura c'è veramente, io quando sono arrivata ho stato impressionata perché c'è di tutto, si può mangiare italiano, si può mangiare indiano, sì. Tante, boh. Ma anche si può mangiare locale, molto buono, ma molto pesante, perché come riso, con patate, con platano, sì, fagioli, tutte queste cose insieme che ti riempiono lo stomaco. Sì, tutti farinati, tutti carboidrati. Insomma, assaggia quello che, sì. Che capita. Sì, hanno come i buffet così a mezzogiorno e la gente mangia tutte queste cose mescolate. Deve essere strano. Sì, sì. Anche molto pesante con il caldo, la gente mangia quello. Wow. Ma questo è perché penso che la gente mangia, tante persone mangiano una volta al giorno anche, quindi se mangiano quello... Ah sì, mi dicevi, mangiano una volta al giorno, ma... Ma come fanno? Cioè, 5 volte al giorno. Cioè, nel senso, ci sono proprio abituati. Io pure più di 5 volte al giorno, ragazzi. Ci crediamo, Leandro. Ma tante arrivano sul lavoro e non mangiano niente fino alle 12, una del pomeriggio, non mangiano nel mattino. È incredibile come cambiano i ritmi di vita, come cambiano le abitudini, cambiando posto nel mondo, cambiando continente, cambiando clima, cambiano le abitudini, cambia tutto. È vero. La cosa più strana è quando uno va dall'altro lato del mondo per un periodo, per pochi giorni. Tante volte le persone penso che viaggino per voler scoprire cose nuove, ma nello stesso tempo non tutti hanno quel coraggio di buttarsi in una situazione totalmente sconosciuta, senza avere nessuna tutela, senza avere qualcuno che gli organizza un attimo il viaggio, cosa fare, dove andare, qualcuno che li consigli. E allora è sempre stato utile per chi viaggia avere un punto di riferimento, qualcuno che gli organizza i viaggi. Ora è molto più facile essere viaggiatori fai da te, perché con internet, con le prenotazioni dei voli online ci si può improvvisare. Sì, diventi l'agenzia turistica di te stessa, leggevo, perché in fondo decidi dove andare, ragazze, compri il biglietto e vai. Che facciamo? Passiamo la parola a un'esperta di viaggi, una esperta che è in linea con noi dall'Italia. Pronto Serena, ci sei? Ci ascolti? Sì, eccomi, ciao! Ciao Serena! Bentornata, ciao. Serena! Allora! Ciao. Grazie, è un piacere essere con voi! Ecco, chi si ricorda Serena? Avevamo avuto un collegamento la scorsa puntata con Serena, un po' last minute, non solo i voli, noi ci abbiamo pure collegamenti last minute, appunto avevamo parlato di questa rubrica che faremo con Serena e avevamo introdotto un po' questo suo mestiere della travel blogger, perché praticamente Serena è qualcuno che ha fatto della sua passione per il viaggio un hobby. Dici un po', Serena. Sì, guarda, è tutto iniziato proprio così, come si suol dire, insomma, per caso, nel senso che io ho sempre avuto la passione per la scrittura, nello stesso tempo per comunque viaggiare, insomma, improvvisarmi sempre delle mete ogni volta, insomma, che avevo un momento libero. E quindi mi è venuto in mente, insomma, di scrivere un blog proprio su questa cosa che io amo tanto, appunto, che è il viaggio. E devo dire che poi da cosa è nata cosa ed è diventata un'esperienza veramente molto, molto positiva, perché si conoscono tante persone online, altri travel blogger con cui poter condividere le proprie esperienze, con cui scambiarsi consigli, ma anche con cui viaggiare, perché veramente adesso sta sviluppandosi molto come nuova forma di promozione turistica, proprio quella di organizzare dei blog tour, e quindi insomma è una bella occasione per conoscere persone, per riunirsi e vedere posti sempre nuovi. Certo, e dico, quindi insomma il blog è assolutamente qualcosa che chiunque dovrebbe aprire, insomma, effettivamente internet aprirlo su quel tema, perché poi da cosa veramente nasce cosa. Senti, ma e concordo con te che vabbè, tutti lo sappiamo che insomma ci sono ultimamente tantissimi blog, ne aprono forse uno, non lo so, uno ogni 10 secondi di sicuro. Qualsiasi cosa tu cerchi, vai su internet e c'è sempre un blog su quell'argomento, su quel posto, su quel ristorante, qualsiasi cosa, soprattutto relativo al viaggiare, è vero. Però spiegaci un po', ma che è un tour blogger, aspetta, blogger tour, come l'ha chiamato? Un blog tour. Io allora, devi sapere che tour, mi conosci bene e sono... Che burundese? Sono pure io burundese, sono più moderna, sì, ecco, dalla pietra del Burundi. Quindi sì, spiegami, che cos'è? Allora, i blog tour vengono organizzati solitamente o da enti di promozione del turismo, alle volte insomma da anche agenti di viaggio, oppure comunque chi crede nel proprio territorio, magari ha delle strutture turistiche nel proprio territorio, decide di organizzare un blog tour, ovvero un itinerario programmato di 2 giorni, di solito è un weekend, mm-hmm. dove invita dei blogger di viaggio, li fa sperimentare insomma il territorio, glielo fa vivere, e poi appunto questi insomma tornando a casa scriveranno della loro propria esperienza appunto in quella zona. E è una cosa molto interessante perché essendo persone tutte diverse con un proprio stile, poi escono comunque sempre delle descrizioni diverse. Certo, del posto. Quindi, io voglio cambiare lavoro, Serena. Come si fa ad unirsi a te? Io voglio cambiare lavoro, è una cosa stupenda, perché uno bello, lo sì, fa... È molto bello, ma lo può fare veramente, veramente un attimo, basta iscriversi, io l'ho fatto con Blogger, ma c'è la piattaforma di WordPress, ci sono un sacco di piattaforme, basta iscriversi e iniziare a scrivere. Sì, però lo può fare chiunque, ma lo può fare soprattutto chi ha una passione come te, chi ci ha messo voglia, tempo e ci ha messo molte energie. Serena, ci ripeti il tuo blog, com'è? Com'è? Come si chiama il tuo blog? Non ho capito, scusami. Si chiama Viaggio in Lamponia, non Laponia, è Lamponia, perché praticamente è il nome di una filastrocca di Rodari, dove appunto lui immaginava, insomma andava alla ricerca di questo paese dolcissimo fatto di marmellate, lamponi, e quindi insomma anch'io mi prefiggo questo obiettivo, sto cercando questo paese. Ma Serena, ma tu in Lamponia sei stata? Non l'ho ancora trovato. Com'è la Lamponia? La sta cercando, Leandra ha detto. La sto cercando, non è facile trovarla, speriamo che prima o poi, appena la trovo ve lo dico. Ecco, insomma. Veniamo pure noi. Portaci, che qua fa freddo! C'è Lamponia! Annaggia, bene Serena, grazie per averci chiarito un po' le idee. Allora, quindi Serena, tu sarai con noi nelle prossime puntate e ci proporrai di volta in volta un weekend, un itinerario da poter esplorare, da poter fare. Cosa hai pensato di, dove hai pensato di portarci il prossimo weekend, il prossimo o per il prossimo viaggio? Allora, io ho pensato ad una meta che per chi vive a Bruxelles è fattibile. Mm-hmm, che ci piace. Parigi, quindi insomma si raggiunge facilmente, e però prosegue in Normandia fino a raggiungere una tappa in Bretagna. Mm-hmm. E è un tipo di viaggio che si può fare in 3 giorni, insomma, da venerdì alla domenica tranquillamente, e ci sono un sacco di cose da vedere, è veramente molto molto bello. E se vuoi te ne parlo più dettagliatamente. Volentieri, perché dai, diciamolo, lo possiamo confessare, c'ero anch'io in questo itinerario, quindi l'abbiamo fatto 2 anni fa. Ed è stato veramente un ottimo, 3 giorni bellissimi, quindi è bene proporlo, perché come dici tu è veramente fattibile, è molto facile da fare, partenza a Parigi, affittare una macchina e fare un itinerario molto bello in 3 giorni, Serena. Quindi vero, tu Serena trasformato anche molto l'itinerario enogastronomico, diciamo, per forza se ci siamo noi in giro italiani sempre, non italiani sempre. Però Vabbè, dai, è appunto, andando poi verso la Normandia e la Bretagna non si possono gustare i formaggi della Normandia o le ostriche della Bretagna, oh, insomma. Sì. Calvados e il sidro, insomma. Che meraviglia. Senti, Serena, quindi postaci bene il link di questo itinerario sulla pagina Facebook. Dacci tutte le informazioni necessarie perché sono sicura che i nostri radioascoltatori sono molto interessati, esatto, alla proposta che hai fatto. Ad esempio penso... Anche perché io avevo scritto dei post sul mio blog, quindi è proprio tutto dettagliatissimo, con cartina e almeno... Benissimo, benissimo, grazie, così abbiamo fatto venire la voglia di viaggiare, oppure anche qualche idea a chi ancora non avevo preso nessuna decisione. Esatto, ragazzi. E nel frattempo, Rossella, io volevo salutare Elena. Chi c'è? E Michelangelo che ci salutano. Ciao ragazzi. Poi abbiamo anche Carmelo. Ciao Carmelo che fedelissimo, il colore dell'anima. Carmelo che ci scrive. Attenzione, c'è un messaggio da parte di Carmelo. Cosa ci scrive Carmelo? Giuledo, andiamo avanti così. Salutissimi. Ciao Melo. Ciao ragazzi, allora continuatevi a Elena che scriva a Rossella, sei una grande segola, per davvero. Ciao Elena, ciao ragazzi, continuate a farvi sentire, mi raccomando. E io direi di sentire un po' di musica. Sì, dai, dopo tutte queste chiacchiere mi è venuto c'è proprio bisogno di qualcosa per iniziare a ballare. Dai, e allora di Fiorella Mannoia vi lasciamo al cielo d'Irlanda in onore di Anne Ireland. Benissimo. I colori dell'anima. Ed eccoci, bentornati in diretta, ragazzi. Bene, allora. Buonasera. Ancora una volta. Oh, ci stava questa bella canzone, Gianni d'Irlanda, sì, della rilassante. Mannoia. Sì, è veramente una bella piacevole canzone. Bravo Leandro per la scelta. È la tipica canzone che uno ascolta quando è in macchina, durante un viaggio, quando sta andando, quando vede lande, sì, sconfinate. In silenzio metti una canzone di questa di sottofondo, è l'ideale. È vero, e com'è bello, tra l'altro mi fai pensare adesso, Tiziana, quando si va in macchina, si fanno viaggio in macchina e quando non c'erano i tom-tom, i navigatori, che bisognava guardare le cartine, guardare dove si andava e poi ci si perdeva, c'era sempre appunto quell'elemento di cui parlavamo prima, la sorpresa, l'inaspettato. Quell'elemento che poi diciamo ci si perde pure col tom-tom. Per fortuna. Alla fine, tante volte, guarda, ti posso assicurare che ci si perde molto di più con il tom-tom tante volte. E ci piace, perché è bello perdersi e ritrovarsi, ci piace anche questo. Insulti che si fanno alla signorina del Tom Tom. Ah, mamma mia. Lasciamo stare. Sì, tante volte si viaggia, secondo me, per non solo per divertirsi, per fare delle nuove avventure. A volte si viaggia perché si cerca qualcosa, perché si vuole scappare da qualcosa, perché si vuole mollare tutto. Sì. Abbiamo a volte bisogno di ritrovare noi stessi e lo andiamo a ritrovare in un posto dove noi ci perdiamo un attimo. È vero, dove non troviamo più quello che sappiamo di noi e possiamo scoprire qualcosa di nuovo. Concordo con te, Tiziana, paradossalmente andando più lontano ci si riscopre, ci si conosce un po' di più, proprio perché sia un ambiente completamente nuovo in cui ti senti libero da qualsiasi schema, da qualsiasi sì. tuo da qualsiasi tuo ruolo, diciamo, che per un modo che hai assunto sì, nella società, perché tutti lo facciamo, non c'è nessuna cattiveria, però insomma è così, è e normale, va... è la società sì, che è ci così, impone ma... anche dei ruoli, ma sì, ci impone, ce li imponiamo noi, ma non c'è niente di sbagliato, però ecco, quello che succede che paradossalmente quando ci si hanno questi ruoli si assumono questi ruoli ci si dimentica di conoscere se stessi, sì. di riscoprirsi, e quindi il viaggio si lontano, smette di sognare a volte, si sì. smette di capire, si dimentica chi siamo poi mm-hmm. nella realtà, e quindi si prende un aereo e si parte e ci si va a cercare. Sì, sì, concordo. Ma lo sai una cosa, che proprio questo discorso mi ha fatto venire in mente un libro che ho letto letto quando, quando ero un po' più piccolina. Un libro molto bello, si chiama Vela Bianca, è di Sergio Bambarè. Spero di non leggerlo in modo sbagliato. No, non ha scritto tantissimi libri. Questo Vela Bianca è il terzo che ha scritto. E racconta una storia molto bella che mi ha fatto sognare. Non è un libro grande, è un libro che si legge molto velocemente, è molto leggero, però nello stesso tempo profondo, perché ti fa entrare un attimo, ti fa fare un viaggio nell'anima, raccontando che cosa? La storia di due persone, marito e moglie, tutte e due avvocati in carriera, se non ricordo male, comunque due professionisti che abitavano in Nuova Zelanda, ad Auckland, e sono travolti, come tutti noi facciamo, dalla routine quotidiana, hanno dimenticato chi sono e hanno dimenticato di essere stati grandi sognatori. E allora a un certo punto mollano tutto, lasciano il lavoro, con tutti i soldi che hanno, i soldi che hanno messo da parte, la liquidazione del lavoro, tutto, investono tutto quello che hanno nel comprare una barca a vela, Vela Bianca. Wow. E iniziano un viaggio in giro per il mondo, per ritrovare se stessi, per capire chi sono. E questa storia poi si colora di tanti imprevisti, e c'è anche un libro magico che rende misterioso anche in alcune parti la storia. È proprio bello, ti fa sognare. Non è un libro pesante, te l'ho detto, è molto leggero, molto piacevole da leggere. Allora lo consigliamo per le vacanze. Sì, ora lo postiamo ecco, su Facebook. Lo postiamo su Facebook, così se avete voglia di leggere qualcosa così, di carino, molto velocemente, per darvi un'idea di cosa fare un domani. A me, guarda, che quando io l'ho letto, guarda, avrò avuto molto, non lo so quanti, ero ancora giovane, e me l'ha fatta venire la voglia di mollare e tutto. E ecco, dalla Sicilia con Burrola e Tiziana arrivata a Bruxelles. E poi io l'ho fatto quando sono venuta a Bruxelles. Grande, sai, io ho mollato bello. Tutto, ho bisogna, mollato bisogna tutte... avere un po' il coraggio ogni tanto, sì, di capire che bisogna cambiare. Prendere bisogna, la routine sì. quotidiana, metterla un attimo da parte, sì, e investire in qualcosa di nuovo. Sì, sì. Allora, che facciamo? Ascoltiamo una nuova canzone per celebrare così tutti gli incontri che si fanno lungo la strada, quando si incontrano pazzi, poeti e chi più ne ha più ne metta. Ed ecco qua la strada dei nostri Modena City Ramblers. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori del. Ed eccoci in diretta sui colori dell'anima, ragazzi. Oggi, eccoci, primo luglio tornati. 2013, il sole a Bruxelles, yuhu! E noi parliamo di viaggi. E salutiamo gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, salutiamo gli amici di Mazara del Vallo, Sara Conoscenti, ciao Sara, e ancora Silvia Zinnetti, un abbraccio! Ciao Silvia! Ed eccoci qui. Quindi, Leandro, tu non me la conti giusta, ti vedo qua con questo occhietto... Che vuole interrompersi. Che vuole? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Dai, su, lo so che abbiamo parlato troppo stasera. Non ce la fai più. Animum debes mutare, non celum. Queris quare te fuga ista non adiuvet? Tecum fugis. Ti ho detto. Scusa, può ripetere? Non ho capito l'ultima parola. Non c'è solo l'ultima, però. Beddo mio, devi cambiare il tuo animo. Dici che perché non ti aiuta il fatto che cambiando, che spostandoti, non ti senti bene? Perché tu fuggi da te stesso, ti porti sempre te stesso a reti, dietro di te. Allora, questa qua è una riflessione che tutti praticamente gli studenti di liceo classico, di liceo scientifico, hanno sentito sicuramente proprio con questa cadenza. Sì, proprio in questo modo, sicuramente. Immagino la prof del latino. Quando hanno tradotto il caro, carissimo Seneca, che diceva, per quelli che scappano da se stessi, quando fanno viaggi, ed è un'altra forma del viaggio, quella di chi intraprende un viaggio per scappare dai propri problemi, per scappare soprattutto da se stesso. Dice un grande filosofo Seneca, beh, bello mio, è inutile che scappi, perché tanto i problemi te li porti con te, devi risolverli prima e devi cercare di lavorare su te stesso. Ecco perché, ecco, ci piace, insomma, in qualche modo finire con questa riflessione. È bello viaggiare, è bello scoprire posti nuovi, gente diversa, però sicuramente sempre con la pace dentro di sé, mai volendo scappare da se stessi, ma essendo se stessi. Bellissimo, sì, bellissimo, sì, questo sì. Momento di riflessione filosofica di Leandro ci è piaciuto veramente. Ci aiuta molto. Sempre Leandro a prendere e concordiamo di il sicuro discorso con da Leandro. Questo punto di vista un po' più sì. Riflessivo, è un vero. Po' più serio. Dai, ogni su. Tanto bisogna essere seri. Bene. Allora, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine. Vorremmo salutare Ireland e ringraziarla moltissimo. Grazie. Anne, dici un po' tutte queste strade che percorso la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Spagna, il Burundi. Che cosa hai trovato tu sulla tua strada? Hai trovato un po' te stessa? Sì. Boh, alla fine casa mia è sempre stata la Spagna, con la mia famiglia, con i miei amici della scuola, eccetera. E l'ultima città per me è qua a Bruxelles, ma alla fine io sono composta, non so se si dice così, sì. Di tutti i pezzi di me sono fatti di tutti i posti dove sono andata. Wow, grazie Anne, grazie mille. Bellissimo. Allora, quale colore diamo questa sera? Tiziana? Io propongo il blu come il cielo dell'estate, il blu come il mare. Olè, ci piace il blu, ragazzi. Viva il blu! Olè! Olè. E vi salutiamo con una bellissima canzone di Lucio Battisti, ragazzi. Sì, viaggiare!